Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma tu sei Nicola? La ragazza di Stromboli. La ragazza di Stromboli ha un nome. Ah sì, certo. Aspetta, non me lo dire. Marcella. No, Mirella. Ah sì, sì, Mirella, certo, scusa, scusami. E come va invece la vostra memoria? Buongiorno da Nicoletta. Volevo sapere, vi ricordate solo le cose importanti o solo quelle che vi piacciono? Ci sono cose che invece dimenticate più spesso, i nomi, le date, gli appuntamenti? È un problema di interesse o un problema di anni? Mettiamo allora subito nero su bianco. Se avete carta e penna, basta anche una matita, provate a rappresentare graficamente la vostra memoria. Potete farlo naturalmente anche mentalmente. Con molta probabilità anche voi come me traccerete una linea che sale in corrispondenza dei primi anni di vita e poi scende gradualmente. Proviamo adesso a fare un grafico che rappresenti la nostra capacità di imparare cose nuove. Torniamo alla nostra linea. Come va? Su, giù, piatta? Parliamone, soprattutto, cari amici, diamoci da fare. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Sto fermo un giro. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Saluto subito il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno. Buongiorno a te Nicoletta e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Le chiederei subito di aiutarci a lavorare sulla prima parola, attenzione. Ma prima vogliamo definirla? Attenzione è quella facoltà del nostro cervello che ci consente di percepire gli stimoli che arrivano dall'ambiente, ma anche gli stimoli che arrivano dal nostro interno, per cui è quello che ci dà consapevolezza del mondo. L'attenzione possiamo anche metaforicamente intenderla come un fascio di luce. In un ambiente buio noi non percepiamo nulla. Se accendiamo una luce, questa illumina i diversi oggetti, per cui noi abbiamo la percezione di ciò che ci sta all'interno. L'attenzione è legata anche con la concentrazione. Restando in metafora, noi possiamo intendere la concentrazione come la possibilità di stringere il fascio di luce e di concentrarlo su alcuni oggetti. Fantastico. Meno male che c'è la luce. Senta, ma per allenarla? Beh, allenare l'attenzione è possibile. Partiamo dal presupposto che l'attenzione è una risorsa limitata, non ne abbiamo mai abbastanza. Il mondo di oggi poi ci richiede delle quote di attenzione veramente inverosimili. Ma ad ogni modo possiamo allenare le diverse tipologie di attenzione, perché dobbiamo ricordare che sono diverse. Abbiamo l'attenzione volontaria, che è quella che noi decidiamo di orientare verso una fonte, un qualcosa che ci interessa, ma c'è anche quella automatica. Se noi siamo improvvisamente colpiti da un rumore, ci giriamo. Ecco, verso quando quella. Si dice quello che ha catturato la mia attenzione. La mia attenzione, sì. Lei stia attento a me, però. Assolutamente, adesso, lo sono sempre. Allora, possiamo provare ad allenarla un po'? Sì, possiamo provare ad allenarla un po'. Ad esempio, possiamo ricercare, possiamo nel corso della nostra trasmissione, sì, seguire quanti saranno gli ospiti che interverranno in trasmissione e distinguerli anche tra uomini e donne. Ospiti intesi come ascoltatori. Come ascoltatori, esatto. Quindi questo però lei ci fa lavorare due volte, perché vuol dire attenzione, cioè dobbiamo stare attenti e poi dobbiamo ricordarlo. Quindi esatto. Lei ci passa un esercizio che vale per due. Che vale per due. Quindi questa è la sfida di oggi. La sfida di oggi. State pronti a sentire... Concentratevi, state attenti a chi interviene in trasmissione, intesi come ascoltatori. Il professor Iannoccari vuole anche che distinguiamo tra uomini e donne, quindi dobbiamo dire tot ascoltatori, donne X, uomini Y, e chiamateci all'800 24 00 24. Al primo ascoltatore che ci fornirà il numero esatto, io ho pensato di far ricevere a casa Genio in in 21 giorni. I segreti dell'efficienza mentale, tecniche di memoria, lettura veloce, mappe mentali e strategie di apprendimento avanzato. Sperling Kupfer editore, scritto da Giacomo Navone e Massimo De Donno, che è un libro che mi sono letta nel fine settimana e ho pensato che potrebbe essere utile ad uno dei nostri ascoltatori. Quindi 800 24 00 24, naturalmente escluso da questo conteggio è il professor Giampaolo Perna, che è in linea con noi. Professor Perna, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto ad Albese con Cassano e professore dell'Università di Maastricht in Olanda e a Miami. Professore, parliamo di intelligenza. Anche l'intelligenza può essere allenata, sviluppata, o abbiamo quella che madre natura ci ha dato e con quella dobbiamo fare i conti? Sicuramente bisogna distinguere alcuni aspetti. Un conto è il talento effettivamente può essere anche parzialmente, se non in gran parte, dato dalla natura. Poi il problema è renderlo operativo, quindi lo diceva Forrest Gump, no? Che l'importante è il comportamento intelligente, non è tanto il quoziente intellettivo. In questo caso, se noi abbiamo dei talenti e non li alleniamo a dovere, non saremo in grado di sfruttarli. Quindi l'intelligenza nel senso globale del termine può essere e deve essere allenato. Ci sono tante opportunità, una è quella di acquisire esperienze nella vita e l'altra è proprio quella di persistere nello sviluppare la propria dote, quindi insistere. Alberto da Perugia, buongiorno. 800 24 00 24, benvenuto. Buongiorno. Allora, appena ho sentito la prima parola che ha detto memoria, ho chiamato subito perché ho capito subito dove il programma vuole andare a parlare e la cosa mi interessa tantissimo, ovvero io sono una persona che si autoriconosce un'estrema intelligenza, profondità, però dall'altra parte sono sempre stato colpito da, nella mia vita, da una memoria molto a breve termine che scompare nei momenti di emotività, ovvero nella mia carriera universitaria io ho dovuto, ahimè, ripetere molte volte l'esame perché io non riuscivo, arrivato a fine pagina, dovevo ricominciare perché pur avendo capito quello che avevo chiaramente letto, non mi ricordavo nulla. E in sede di esame, davanti al professore, 5 minuti prima ricordavo tutto, davanti al professore, tabula rasa. Memoria persa, completamente persa. Professor Iannoccari e professor Perna, devo dire che questo è un problema abbastanza comune, quello che ci racconta il nostro amico Alberto, e anche ragazzi, anche le mie figlie che stanno studiando dicono: ma leggo, poi mi sembra di sapere, non mi ricordo nulla. Che cosa si può fare? Beh, intanto dobbiamo distinguere la comprensione di cui parlava l'ascoltatore dalla memorizzazione. Sono due processi diversi, per cui l'attenzione e la concentrazione sono necessarie alla memorizzazione, ma per poter mandare ad effetto quello che noi vogliamo ricordare dobbiamo attuare dei processi mnemonici, per cui dobbiamo ad esempio costruire delle mappe mentali, come diceva prima riguardo al libro, oppure possiamo fare delle associazioni, oppure c'è anche una tecnica americana che ci consiglia come procedere per memorizzare un testo. Provi a raccontarcela, che noi prendiamo appunti. Ad esempio, innanzitutto scorriamo l'indice del testo, per cui iniziamo a porci delle domande su che cosa contiene quel testo, che cosa ci vuole raccontare, come è articolato. Dopodiché iniziamo la nostra lettura. Iniziamo la lettura e alla fine di ogni paragrafo, sì, va bene, non ci limitiamo soltanto a ripensare, ma riparliamo di quello che abbiamo letto, per cui ricostruiamo mentalmente i contenuti di quel paragrafo e andiamo avanti così fino alla fine del capitolo. Alla fine del capitolo sicuramente saremo soddisfatti, ma non andiamo a quello successivo se prima non abbiamo ripercorso la struttura del capitolo che abbiamo appena concluso. Un aspetto importante è mantenere la curiosità, per cui porci delle domande su che cosa contiene quel testo, di che cosa ci vuole parlare, e facciamoci anche noi delle domande in modo che la curiosità funzioni da aggancio per ricordare poi le informazioni. L'aspetto dell'ansia invece, quella sicuramente interferisce nei processi di memorizzazione e a volte la blocca. E questo ci spiega perché il professor Perna, quando abbiamo l'ansia, quando siamo agitati, sembra che di perdere la concentrazione, l'attenzione, le cose non ci vengono più in mente, è come se si staccasse una spina. Questo è vero, anche se bisogna ricordarsi che una quota di ansia minima è necessaria, perché stimola la memoria, certo. Non è che, perché in qualche maniera ci mette in allerta, quindi stimola tutti quei processi mentali che ci aiutano poi a ricordare. È chiaro che se è eccessiva in realtà ci blocca, l'ascoltatore diceva io fino a 5 minuti prima riuscivo a ricordare, poi dopo no, quindi apparentemente non sembra necessariamente un problema di memoria, quanto il fatto che l'ansia raggiunge prestazionale, raggiunge un livello talmente elevato da essere negativa per la persona. Ricordiamoci che le emozioni in generale hanno un effetto duplice, cioè in alcuni casi possono disturbare la memoria, in altri casi invece la imprimono. Se voi pensate all'11 settembre quando c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle, tutti noi ricordiamo cosa stavamo facendo in quell'istante, sì. Cioè l'emozione forte imprime la memoria, in altri momenti l'emozione disturba, quindi è un'azione diciamo duplice che varia da caso a caso. Annalisa da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. È molto interessante quello che ha detto il professore a proposito del leggere, memorizzare e leggere sono due cose diverse, e anch'io ho una figlia che in questo momento frequenta l'università e spesso le dico ricordati che quando leggi non è vuol dire imparare, e vincere l'ansia a mio parere, soprattutto negli esami, se si ha una forte preparazione l'ansia diventa un catalizzatore positivo, poi quando si va a sedersi e superare l'esame, sì. E se manca la preparazione che l'ansia gioca dei brutti scherzi, ecco questa è la mia esperienza. Io ho 50 anni, sono una libera professionista, studio da quando ho memoria, da sempre. E, ecco, da quando ho memoria mi piace, sì è vero. Da quando ho memoria io studio, posso dire questo, noto che a 50 anni la freschezza dell'apprendimento è sempre quella dei 25, dei 30, almeno nel mio caso non noto una stanchezza, una difficoltà. Mi piace l'approccio nuovo, mi piace imparare continuamente cose nuove. Noto però una certa stanchezza e mi piacerebbe che mi si insegnasse qualche trucco, qualche rudimento per poter migliorare nel poter dominare la complessità delle materie. Ecco, nella quantità delle nozioni che riesco a contenere noto un certo limite che io riconduco all'età. Mi domando se sbaglio o se invece è corretta la sua diagnosi. Sì, la mia diagnosi. Professor Perna. Allora, è una bella domanda questa, perché è chiaro che esistono tutta una serie di studi che stanno valutando quanti sono quelle zone, le quantità mnemoniche, quindi gli elementi di base della memoria che noi possiamo contenere. Devo dire che al momento si è parlato di numeri tipo 7, 12 eccetera, in realtà attualmente la situazione non è completamente chiara, comunque anche il collega può darci uno spunto. È vero anche che ritenere la complessità, cioè essere oggi un pico della mirandola, non è più possibile, perché la quantità di informazioni rispetto a quei tempi è sterminata. Quello che si può fare è creare una database di fondo, cioè una preparazione di base che ci permette poi un domani di introdurre la complessità e di non memorizzarla, ma di agganciarla a quella che è la cultura di base che noi abbiamo. Quindi oggi come oggi è più importante avere una cultura vasta e di base che ci permette poi di cogliere la complessità piuttosto che di cercare di studiare la complessità di per sé stessa. Sì, in effetti è proprio così, viviamo immersi in un mondo così complesso che è difficile veramente riuscire a ricordare tutto, ma la nostra memoria si sta trasformando dal memorizzare. È il suo? No. Oh no. Ah no. Ok. Sono stato. No, perché si è ricordato di spegnere il cellulare. Mi sono ricordato di spegnere. Perché la nostra memoria adesso, più che ricordare le informazioni, a parte quelle specialistiche che ci servono per svolgere le nostre attività, si sta orientando verso la memorizzazione degli indirizzi dove sono contenute le informazioni. Per cui noi siamo capaci di ricordare dove abbiamo visto, dove abbiamo letto un determinato contenuto che ci può interessare, che possiamo richiamare successivamente, piuttosto che ricordare il contenuto stesso. Di fatto. E questo l'uso perché la tecnologia che ci aiuta, anche il modo diverso di fare informazioni, di ricevere informazioni. Sì, sì, dobbiamo essere anche veloci, non possiamo più attardarci nel memorizzare un contenuto. Ma per aiutare Annalisa, e quindi per dare ad Annalisa e a tutte le persone, me compresa, che si ritrovano un po' nella difficoltà che lei ci descriveva, che cosa si può fare? Ci sono degli esercizi, c'è una sorta di palestra, perché quella di oggi vuole essere un po' un allenamento che vogliamo proporre ai nostri ascoltatori. Sì, oltre a condividere quello che ha detto il professor Perna, aggiungerei anche di concentrarsi su un argomento per volta, piuttosto che leggere, magari sfogliare una rivista tutto ad un fiato. Concentriamoci su una o poche informazioni e poi cerchiamo delle persone alle quali ripetere quell'informazione, sì, in modo tale che ciò che noi vogliamo apprendere lo possiamo nel tempo consolidare attraverso il racconto. Quindi facciamo già questo lavoro di traduzione. Facciamo questo lavoro di traduzione e dopodiché i collegamenti tra i vari concetti arrivano con più facilità. Sergio da Lecce, buongiorno. Buongiorno. Come mi chiamo? Non lo so. E allora qua siamo già. Non è uno scherzo. Allora, Sergio. Io il mio problema è quello di non ricordare assolutamente nulla, anche delle cose. Anche delle cose che magari sono successe 2 minuti fa. Cioè, ho avuto problemi con la scuola perché chiaramente la memoria è da zero, ho avuto problemi nel lavoro, tant'è vero che io ho dovuto avere una ragazza vicino a me che mi ricordava quello che io generalmente dovevo fare. Non ricordo molte volte la strada per andare a casa, cioè come se uno smemorato completamente, io dimentico assolutamente tutto. Però sappiamo che si chiama Sergio, ci chiama da Lecce all'800 24 00 24. Vero Sergio? Sì, me lo conferma questo? È un numero che ho memorizzato sul telefono perché ascolto sempre questa trasmissione, quindi è un numero che ho memorizzato. Professor Perna? Teniamo conto una Rimane cosa. Senza parole? Rimango senza parole, più che altro bisogna essere consapevoli che la memoria normalmente funziona bene e molto influenzata dall'attenzione che noi abbiamo verso le cose, cioè, quindi ci sono tante influenze, è anche vero che talvolta ci sono alcuni aspetti che possono funzionare meno bene di quello che dovrebbero, quindi dovete sapere che esistono tutta una serie di test per valutare le varie tipi di memorie che noi abbiamo, che sono multiple e che ci permettono poi talvolta di scegliere delle tecniche riabilitative neurocognitive per cercare di stimolarla. Quindi sicuramente se addirittura uno non si ricorda le cose a brevissimo termine, io comunque una valutazione neuropsicologica la farei. Detto ciò, in realtà il lettore ci aggancia a un altro aspetto importante. La memoria dipende molto da ciò che ci interessa e dall'attenzione che mettiamo sulle cose. Io faccio un esempio personale, io il passato me lo ricordo molto poco, forse perché sono orientato al futuro, non lo so, io ho altre persone che si ricordano i dettagli, cosa è avvenuto il giorno 22X, eccetera. Quindi esiste una differenza anche di strategia e di importanza della memoria che ci porta a ricordare alcune cose selettivamente piuttosto che altre. Quindi sono delle, tra virgolette, scelte di vita e di modo di essere. Questo fa sì che esistano delle differenze molto grosse. Se ci sono dei deficit evidenti, però bisogna, e credo che il mio collega sia d'accordo, cercare di arrivare fino in fondo a comprenderli sostanzialmente. Era Valeria, è arrabbiata con me perché dice che mi sono dimenticato una cosa, non mi ricordo neanche più che cosa. Hai ancora la forza di arrabbiarsi? Io ormai con te non me la prendo neanche più quando ti dimentichi le cose. Con te non mi sono mai dimenticato di niente. Perché non ti ricordi neanche le cose che non ti ricordi. Ma smettila che non mi dimentico di niente. Ma se il giorno del mio compleanno ti sei persino dimenticato di farmi gli auguri. Ma cosa me ne frega di queste cose piccole? Io mi ricordo le cose importanti. Tipo? Come la mappa degli autovelox, le canzoni dei Pooh. Beh, è facile ricordarti solo le cose che interessano a te. Ma non credo che prima tua moglie si sia arrabbiata perché ti eri dimenticato che sola la quinta parola di piccola Kate. Ma non di certo, anche perché la so. Ma questa è una cosa che riguarda sempre te. Devi imparare anche le cose che riguardano gli altri. Essere e benessere. Ecco qua, avevamo un appuntamento insieme e noi siamo tornati. 800 24 00 24, se volete insieme a noi allenare la vostra memoria e il vostro cervello. Abbiamo in linea il professor Perna, in studio il professor Iannoccari e Daniele che ci chiama da Salerno. Buongiorno Daniele, benvenuto. Buongiorno, grazie. Prima di tutto complimenti per la trasmissione, è veramente meravigliosa. Allora, io volevo condividere più che altro un metodo che utilizzo da quando ho memoria, appunto, per riuscirmi a ricordare le cose. Sì. Io ogni qualvolta ho dovuto studiare un libro, un qualcosa, ho sempre dovuto fare degli schemi che si concatenavano l'un l'altro, dove andavo a mettere giusto 2 o 3 parole che rappresentavano tutto quello che dovevo ricordare del tema, e solo utilizzando questo metodo riuscivo a ricordare anche dei bei tomi universitari, belli grossi e corposi. altre maniere, studiando mnemonicamente, cioè ripetendo come vedevo fare da molti miei colleghi all'università, non riuscivo assolutamente a ricordarmi nulla. Anzi, le dirò di più, quando c'era qualche parola particolarmente difficile da ricordare, io me la scrivevo sulla mano in maniera tale che durante la giornata l'avevo costantemente di fronte e si imprimeva in questo modo nella mia memoria. Grazie Daniele per questo suggerimento. Gli schemi, professor Iannoccari, è una delle strategie per ricordare. Ricordiamo però a nostra volta che la memoria è composta da tre passi, mi lasci usare questo termine che non è corretto ma ci racconta bene. La memoria ha tre meccanismi che possiamo definire come le tre R, perché ogni parola, ogni meccanismo inizia per R. Allora, il primo è la registrazione. Non tutto ciò che noi ascoltiamo, vediamo, rimane impresso automaticamente nella nostra memoria, va bene? Ma affinché ciò avvenga è necessario che ci sia motivazione e che ci sia attenzione. Sì. Questi sono i due pilastri per poter registrare un'informazione, ma ciò non è sufficiente, perché per poter essere poi elaborata è necessario andare nel secondo meccanismo, che è quello della ritenzione. Sì. Dobbiamo adottare degli strumenti di memorizzazione che ci aiutano poi a passare il materiale dalla memoria a breve termine alla memoria a medio-lungo termine. Fatto questo, non è detto che poi noi possiamo ricordare ciò che abbiamo memorizzato. Certo. Dobbiamo recuperare, quindi il terzo meccanismo è il recupero. Molte volte noi siamo consapevoli di avere un'informazione, ma non riusciamo a riprenderla, non riusciamo a recuperarla. Quindi la conoscenza dei tre meccanismi ci dà la possibilità di capire a quale livello la nostra memorizzazione non ha funzionato. Certo, ad esempio quando noi diciamo non mi ricordo, ma basta l'amica che ti dice ma ti ricordi che eravamo lì, e improvvisamente ci appare tutto ben chiaro. Quindi questo è un difetto dell'ultimo meccanismo del recupero, che si può potenziare se abbiamo difetti del recupero, facendo ad esempio le parole crociate. Assolutamente, le parole crociate sono degli ottimi esercizi per poter migliorare e potenziare il meccanismo del recupero. Se invece ho una difficoltà nel secondo passaggio, quello della ritenzione, che cosa devo fare? Allora, innanzitutto stare attenti a non dire ah, questo è facile, lo ricordo, perché questo è un tranello della nostra attività mentale. Quindi se noi siamo interessati a ricordare un'informazione, dobbiamo intrattenerci su quell'informazione, cercare di associarla ad un qualcosa di già noto, oppure come fa il nostro ascoltatore possiamo creare degli schemi mentali, perché ci aiuta anche il meccanismo visivo, che in noi è molto potente, per cui attraverso lo schema visivo noi riusciamo poi a ricordare, a rievocare le informazioni, oppure ripassare, cioè chi per esempio riesce bene a ripassare mentalmente o ad alta voce il materiale, per cui a ricordarlo, o ad associarlo anche dei numeri, a utilizzare delle mnemotecniche, il racconto di storie, la divisione per categorie, il metodo dei loci, eccetera, ce ne sono tanti. L'importante è non farsi sfuggire l'informazione pensando che soltanto perché è facile noi possiamo ricordarla. Professor Perna? Io aggiungerei una cosa importante, che è l'uso attento del sonno. Il sonno, dalle mie conoscenze, influenza in maniera molto importante quello che sono il consolidamento della memoria e il processo mnemonico. Per cui se una persona, per esempio, studia e rinuncia a dormire per avere più tempo per studiare, fa un grosso errore. Grosso errore perché manca quella parte di rielaborazione della memoria fondamentale poi per renderla solida. Questo vale per tutte le memorie, sicuramente le memorie a contenuto emotivo vengono colpite di più, cioè se io mi faccio una bella tecnica dopo che ho avuto una bruttissima esperienza, il rischio che me la ricordi più facilmente in futuro diventa più alta. E questo è un aspetto su cui abbiamo già approfondito insieme, professor Perna, cioè sì. I brutti ricordi si fissano proprio nel sonno, quindi se abbiamo avuto un evento traumatico, se ci siamo spaventati, l'idea mi schiaccio un pisolino così mi va via lo spavento, non è una buona idea. No, non è una buona idea, in generale però il sonno è fondamentale nel processo della memoria e quindi bisogna curare bene un sonno che sia efficace e regolare proprio per migliorare quelle che sono le capacità mnemoniche. E abbiamo Vincenzo che ci chiama da Alessandria. Buongiorno Vincenzo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere ai due professori la faccenda di studiare, cioè mettere la lezione sul nastro e ascoltarla mentre si dorme. Se la cosa è funzionale, suggerirla ai nipotini che fanno un po' fatica. Ma io lo sapevo, adesso non lo so, qua là è. Si dice che la notte porti consiglio e a volte riesce a farci entrare in testa la lezione. Professor Iannotteri. Avevo sentito appunto che qualcuno usava quel sistema lì, di usare la lezione sul nastro. Intanto che dormiamo sentiamo la lezione. Professor Iannotteri, lei la suggerisce nel vostro... Non è un sistema comprovato, anche perché gli studi in merito sono un po' controversi. Credo che sia soggettiva l'utilità di questa tecnica. Intanto ha il vantaggio di utilizzare un periodo nel quale non sono presenti degli stimoli distrattori, per cui non siamo distratti da altre cose, ma se riusciamo a percepire l'informazione che ci arriva durante il sonno è un elemento per poterlo ricordare. È un'attività passiva, per cui se un soggetto ha un sonno profondo, sicuramente gli stimoli che arrivano anche dalla ripetizione della lezione non riescono a penetrare nelle attività dedicate alla memorizzazione, per cui è un'attività insufficiente. Per qualcuno invece che ha un sonno più leggero, sembra dagli studi che sono stati condotti che possa riuscire ad entrare nella sfera dei ricordi. E noi continuiamo ad allenare il nostro cervello, ma a volte dobbiamo fare un pochino di fatica. Perché al nostro cervello piace lavorare in un corpo particolarmente attivo. Il test esige che usiate l'immaginazione e volgiate la mente in quante più direzioni possibili. Ovviamente non c'è una risposta esatta a un test per la misurazione del pensiero divergente. Chi ve lo somministra osserva il numero e l'originalità delle vostre risposte. Il test non misura l'intelligenza analitica, ma qualcosa di affatto diverso, più prossimo alla creatività. Scrivete tutti i modi che vi vengono in mente per utilizzare i seguenti oggetti: un mattone, una coperta. Professor Perna, insomma bisogna fare un po' di fatica, parleremo anche di attività sportiva, ma questa in effetti è una specie di capriola che deve fare il nostro cervello. L'abbiamo tra quello che Malcolm Gladwell in Fuori Classe chiama pensiero divergente. Il libro è molto interessante, si intitola appunto Fuori Classe e ci aiuta a capire come il talento da solo non basti per fare un fuori classe. Professore. Devo dire che ho letto con piacere questo testo, anche perché dice cose che non sono sempre le solite cose che vengono dette. Cioè, dal punto di vista generale si dice: se io nasco in una certa maniera col talento avrò successo. Invece è falso. È falso perché accanto al talento ci vuole il contesto giusto, quindi bisogna capitare nei posti giusti e nei tempi giusti. E seconda cosa, ci vuole tanto allenamento. Se noi andiamo a vedere la storia dei grandi fuoriclasse, parlo di Bill Gates, parlo di Steve Jobs, ma tanti altri, vedrete che se leggete la storia, loro sono stati bravissimi, hanno un talento, ma si sono trovati nel momento giusto, nel punto giusto. Facciamo un esempio: se io ho un grande talento per l'architettura e mi trovo nel momento di una gravissima crisi immobiliare e economica, non potrò sfruttare questo talento. Quindi se invece capita il momento in cui c'è un rilancio di tutta la parte immobiliare, ecco che il mio talento potrà essere usato. La seconda cosa importante è l'allenamento. Allora, sembra che per poter diventare di fuori classe bisogna avere l'opportunità giusta, il talento giusto, ma anche 10.000 ore di allenamento. 10.000 ore vuol dire che una persona deve, facciamo un esempio di Bill Gates o Steve Jobs, devono stare sul computer per tutte quelle ore lì. Allora a quel punto diventa automatico, quindi arrivare a essere fuori classe, quindi capaci di usare l'intelligenza in maniera pratica e dando dei risultati corretti e forti, diventa fondamentale ricordarsi del resto. Un'altra cosa curiosa del libro era il ruolo delle famiglie. Allora, sembrava a un certo punto che a parità di talento nascere una famiglia medio-alta sia più funzionale che nascere una famiglia povera. Ovviamente questo scatena una serie di congetture negative, ma il problema non è economico, il problema è che chi vive in una famiglia medio-borghese è più portato a fare domande, a mettersi in mostra, a pretendere, piuttosto che una famiglia unica, umile, dove si tende a rimanere più schisci. Quindi la capacità esplorativa viene messa un po' in prova. Poi dovete leggerlo perché ci sono... È un libro molto interessante e io vorrei tornare rapidamente su questo pensiero divergente che possiamo, io l'ho tradotto come le capriole del nostro cervello, perché nel testo che vi abbiamo, nel breve estratto che vi abbiamo fatto ascoltare, suggeriva di scrivere tutti i modi che vi vengono in mente per utilizzare due oggetti, il mattone e la coperta. Ed è un esercizio che insieme al professor Giannoccari abbiamo provato a fare prima di andare in onda, perché misura proprio la nostra creatività e soprattutto la nostra capacità di fare collegamenti. Molti di noi potrebbero dire la coperta è quella che mettiamo nel letto per coprirci, per non avere freddo, però ecco, questo da solo non basta, è una delle tante definizioni, ma che non scatena quei processi, quei collegamenti che invece sono richiesti assolutamente e soprattutto nel giorno d'oggi. Professor Giannoccari, prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade rapidamente, perché possiamo consigliarlo come palestra ai nostri ascoltatori? Perché ci consente di mettere in comunicazione aree diverse e a volte anche distanti della nostra, del nostro cervello, per cui creare dei ponti e dei collegamenti che possono essere vincenti in situazioni in cui dobbiamo innovare, dobbiamo trovare delle soluzioni nuove e molte volte fantasiose. Essere e benessere. La vicinanza con il professor Giannoccari e la guida da lontano del professor Perna mi hanno fatto ricordare due cose importanti che devo dire. La prima, che potete iniziare a chiamare all'800 24 00 24 per rispondere alla domanda che ci ha fatto il professor Giannoccari in apertura, per allenare la nostra attenzione ma anche la nostra memoria, cioè il numero di ascoltatori che sono intervenuti in questa trasmissione divisa tra uomini e donne. La seconda cosa che vi voglio dire è che Radio 24 è la radio ufficiale della BIT e naturalmente anche Essere Benessere sarà presente in fiera giovedì, però 16 febbraio, insieme agli ospiti e a voi parleremo delle cose che abbiamo imparato viaggiando e che hanno aggiunto benessere alla nostra vita. Quindi già, se volete, noi abbiamo il nostro profilo Facebook, possiamo raccoglierle. Magari qualcuno di voi ha imparato a ballare il tango argentino andando a Buenos Aires, magari qualcuno dopo un viaggio ha imparato a utilizzare le spezie, scriveteci e ne parleremo proprio giovedì 16 febbraio alla BIT. E intanto io vorrei tornare su un aspetto che ci viene ribadito da numerose ricerche, cioè che l'attività fisica aiuta anche il cervello, e quindi tante volte noi abbiamo detto tutto muscoli e niente cervello, invece insomma non è poi così detto. Non solo muscoli, praticare sport allenerebbe anche il cervello. A dirlo è una ricerca svedese apparsa sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, secondo la quale svolgere attività fisica costante renderebbe più intelligenti e brillanti. La ricerca si è concentrata su un campione di 1.200.000 svedesi nei primi anni di età adulta. Un periodo ideale per uno studio di questo tipo, commenta Georg Kuhn, autore dello studio, perché è l'intervallo di tempo in cui prendono forma le principali capacità cognitive e anche quello in cui il rendimento scolastico ha il maggior impatto sulla vita futura. I ricercatori hanno cominciato ad osservare i partecipanti all'età di 18 anni e dopo un certo periodo di tempo hanno potuto rilevare come i più sportivi avessero anche i migliori libretti universitari. Esiste, spiegano gli scienziati, una correlazione tra l'allenamento cardiovascolare e le migliori capacità intellettive. Attraverso l'esercizio, infatti, il cervello viene irrorato con un maggiore flusso di sangue e un maggior apporto di ossigeno. Lo sport, ha concluso Kuhn, può influire molto sui curricula accademici. A prescindere dalla predisposizione individuale, dunque, gli scienziati svedesi sostengono che ciò che si sceglie di fare e come si sceglie di vivere può fare la differenza. Da Salute 24. Hai capito questi svedesi? Professor Giannoccari, lei ha da aggiungere qualche puntualizzazione? Ogni sport allena, ma in modo particolare allena alcune parti della nostra, del nostro cervello, meglio, no? Dell'efficienza del nostro assolutamente, cervello. Assolutamente, sì. Lo sport, diciamo che per tutti i tipi di discipline incrementa l'organizzazione visuo-spaziale, l'attenzione, migliora l'attenzione visiva, divisa, automatica, anche il coordinamento motorio viene potenziato, ma dobbiamo fare delle distinzioni. Ad esempio, gli sport di squadra che si giocano all'aperto hanno un maggior incidenza sulla capacità di previsione degli schemi di gioco e anche sulle strategie da adottare, mentre gli sport di squadra al chiuso invece migliorano la velocità di elaborazione delle informazioni di gioco, la presa di decisione e anche i tempi di reazione. E quelli, gli sport che invece pratichiamo da soli? Ad esempio ci sono gli sport a due, come il tennis, lo scherma, le arti marziali, eccetera. Queste migliorano ad esempio le funzioni esecutive, quindi la capacità di pianificare e programmare il gioco e anche l'intuizione e il pensiero laterale, visto che se ne sta parlando, il gioco a due è utile anche per questo motivo. Poi ci sono gli sport invece individuali, come ad esempio il nuoto, la maratona, eccetera, dove ciò che viene sviluppato e potenziato è ad esempio la concentrazione, le percezioni del proprio corpo, quindi le percezioni propriocettive, il coordinamento motorio, come ad esempio per i tuffatori, e la gestione delle risorse energetiche. Insomma, bisogna, quindi anche qui è la varietà che la ci varietà, aiuta. Sì. Ma non solo sport, ma anche un po' di dieta. Io vi inviterei, se adesso avete un languorino, di non cedere subito, insomma bevete un sorso d'acqua, chiamateci, fate un salto in bagno a rifarvi il trucco, insomma non cedete subito alla voglia di fare uno spuntino, perché il vostro cervello vi ricompenserà. In linea con noi abbiamo il dottor Giovan Battista Pani, ricercatore presso l'Istituto di Patologia Generale dell'Università Cattolica di Roma. Dottore, buongiorno. Buongiorno, grazie. Noi potremmo dire che la fame aguzza l'ingegno. Sì, questo... È un messaggio semplice ma sicuramente sintetico ed efficace. Lei certamente fa riferimento a alla sua ricerca, che è andata a vedere come si comporta una particolare molecola. Sì, noi abbiamo studiato essenzialmente una molecola che si trova nelle cellule del nostro cervello, nei neuroni. Sì. Che in qualche modo dirige le attività, un po' come un vigile urbano, dirige le attività dei geni dentro le nostre cellule, sì. Spegne alcuni geni e ne accende altri, con lo scopo di migliorare la resistenza allo stress delle nostre cellule e in qualche modo anche la capacità di resistere al tempo, all'invecchiamento e così via. Bene, noi abbiamo osservato che questa molecola, che quindi ha azioni benefiche sulle nostre cellule, è attivata dalla, non dico dalla scarsezza, ma dalla limitatezza dei nutrienti. In qualche modo questa cellula, questa molecola riesce a avvertire che la cellula ha bisogno di nutrienti, che c'è una limitata disponibilità di nutrienti, e tale attivazione esercita tutta una serie di effetti positivi sulle nostre cellule. Quindi, professore, meno, un pochino meno per avere un cervello che funziona di più. Non cediamo troppo, senza esagerare, certo. Infatti, non bisogna morire di fame. Ma... Assolutamente, però non esagerare, ci vuole muscolosi e anche un po' magretti. In linea con noi abbiamo Omar da Pisa, un secondo... Omar? Sì, buongiorno. Mi hanno detto che lei la sa. Sì, sì. Chiudiamo allora, con lei. Allora, vorrei rispondere alla domanda. Sì. Secondo me ci sono intervenuti 5 persone. Allora, 4 uomini e una donna. Bravissimo, Omar. Grazie. Ce l'ha fatta. Grazie a voi, grazie a tutti. Allenatevi, a domani. Essere e benessere.